con Nicole Balassone per parlare di Ugo, Best of, il secondo volume, a Roma, ai Giardini della Filarmonica, lunedì 2 settembre 2019. Nicole, ben trovata. Ciao Federico, grazie, ben trovato. Raccontiamo prima di tutto, per quegli sventurati e le sventurate che non conoscessero la formula Ugo, cos'è Ugo? Aia, questa è una domanda sempre ottica. Ugo non vuole definizioni, Ugo sfugge le definizioni, assolutamente. No, ci piace lasciarci aperte un po' tutte le possibilità, no? Magari una sera siamo un contenitore umoristico, un laboratorio di collaborazioni tra autrici e attrici, un'altra volta possiamo essere qualcos'altro, non lo so, un negozio di ferramenta. Ci vogliamo tenere aperte tutte le possibilità, dai, non ci vogliamo precludere nulla. Però comunque si tratta di autrici e attrici che sotto i 10 minuti si mettono in scena con dei monologhi e ci sono anche dei momenti musicali. Sì, è un contenitore eterogeneo perché non ha una linea stilistica troppo definita, però ecco, il motivo conduttore è questo di cui parli tu, attrici che scelgono dei brani scritti da autrici o a volte scritti da loro stesse, sempre pezzi brevi che in genere hanno connotazioni diverse, dal tragico al comico e perché no anche con una connotazione musicale, sì. Oh, siamo al secondo volume di un The Best Of, quindi sono dei pezzi già andati in scena e quelli che hanno riscosso più successo e sono stati più apprezzati, giusto? Sì, siamo nella fase riciclo. No, sì, ormai Ugo ha, credo che abbia quasi 2 anni, quindi c'è il materiale per fare un secondo volume di pezzi selezionati che hanno avuto un particolare riscontro, oppure che piacciono di più a noi, insomma. Sì, quindi poi d'estate ci piace prenderci magari una pausa dalle novità e fare un po' un riepilogo, no? Una specie di punto della situazione. E poi si tratta di un luogo nuovo per voi. Oh, Nicole, tu come ti sei avvicinata a Ugo? Di nascosto alle spalle. Tutto è nato, si può dire, da una mia esperienza quasi triennale di scrittura sulla rivista Linus, dove ho avuto un'illustre collega che è Veronica Raimo, che molto gentilmente mi ha suggerita al gruppo Ugo, al primo gruppo, al nucleo embrionale, diciamo, delle ragazze che hanno avuto quest'idea e che l'hanno poi realizzata. E quindi, insomma, tramite lei ho conosciuto le altre e iniziato questo rapporto di collaborazione. Io sono solo autrice, quindi mi rapporto con le attrici sui pezzi, ci ragioniamo insieme, a volte loro hanno scelto dei pezzi che avevo già scritto. E in altre situazioni invece magari loro mi hanno dato degli spunti e quindi abbiamo creato dei brani un po' più su misura, no? E quindi piano piano, anche se io non vivo a Roma, quindi vedo poco queste ragazze, però ci sentiamo e si è creato un rapporto, ecco, lavorativo ma non solo. Ho considerato che sei un'autrice, quali sono stati i tuoi riferimenti e come si caratterizza un po' la tua scrittura? Sì, allora, permettiamo che io non sono una scrittrice di professione, perché faccio tutt'altro, però la scrittura mi è sempre piaciuta e soprattutto quella con un accento ironico, insomma, mi piace la provocazione, mi piace il rovesciamento del punto di vista, mi piace anche scrivere cose molto cattive, infatti sono contenta di aver trovato in Ugo alcuni interpreti, tra cui ad esempio Cristina Pellegrino, Annalisa Di Anticordone in particolare, che si sono fatte carico di questa responsabilità di dare voce ad alcuni pezzi un po' forti forse, e quindi no, ho trovato in loro, devo dire, dei capri espiatori eccezionali, loro sono bravissime, sono tutte bravissime, loro in particolare perché le conosco un po' meglio. Ecco, cosa apprezzi maggiormente di questo format? Ma per me come autrice sicuramente è un'esperienza completamente nuova, perché chiaramente a noi che scriviamo per la lettura manca completamente un riscontro di pubblico vivo, no? Sì. Mentre invece l'interprete, oltre a trasformare completamente il pezzo, a dare un contributo molto importante nell'interpretazione, quindi ha creato quasi una creatura nuova, no? Ha un rapporto con il pubblico molto più diretto. Quindi vedere il proprio pezzo che subisce tutti questi passaggi, queste trasformazioni attraverso l'interprete, attraverso la ricezione del pubblico, per me è stata un'esperienza innovativa, completamente inedita, e quindi l'ho trovata un'esperienza estremamente interessante. E allora ricordiamo l'appuntamento con Ugo, un The Best Of, il volume 2, a Roma, ai Giardini della Filarmonica, lunedì 2 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Nicole Balassone. Un abbraccio. Grazie, in bocca al lupo. Vogliamo dire i nomi del cast. Brava, brava, certo. Dai, diciamoli allora. ci sono Valeria Bellardelli, Sara Borsarelli, Betta Sanchini, Annelitta Ciccone, Annalisa Di Anticordone, Arianna Dell'Arti, Paola Michelini, Leno Choice, Cristina Pellegrino, Francesca Stas e anche io. Siamo noi. Bene, Nicole, un abbraccio e a presto. Grazie Federico, a presto, ciao.